era solo un'impressione. Sto perdendo il passo, non reagisco come sempre, non sono più lo stesso. Non è questione di energia, qui manca la mia vita. Non mi sento più depresso, ma adesso è così e non va bene. E non va bene. Ho voglia di rischiare, ma mi accontento anche di poco adesso. Gioco duro con la vita, ma sono stanco e a volte passo. Non invidio più nessuno, questo è la nota positiva, ma mi fido sempre meno anche di te. E non va bene. E non va bene. E non va bene. No, no, no, non va bene. Non ho voglia di sentire parole che mi fanno male. Se decido scelgo ancora me, e senza pensare, e senza emozioni, senza valide ragioni, apro il libro dei ricordi, amori perduti, appuntamenti mancati, sogni sbiaditi.